importante. Avanti, amico. Posso ruttare? Rutta, rutta, che ti ruttino. La rutta. Ma con che cosa stai modulando? Col Galaxy? Con il Typhoon, la Fayette Typhoon. Andava di Roggero, non si è sentito nessuno. No, ma sta facendo tutto l'altra mattina. Però sempre il volume basso, adesso questa segna ore. Guarda, tu hai visto. Signorone, perché quanto sto arrivando? Sto uscendo con 2 watt, scarsi. Fondo scala, sì. Fondo scala. Fondo schiava. Senti, altro qualcuno che vuole mettere 300. È nuovo, cazzo, lo sono fatto di nuovo. Attenzione, mi dà 10. Attenzione, già mi dà 10. dimmi il finale del tuo numero telefonico, se non me lo ritrovo proprio. Ma di quale? 201 finale, all'altro non lo ricordo il nuovo. Quello con cui mi hai chiamato adesso. Aspetta. Faccio uno squillo, dai. Si arriva.